tanto dormi. Mi vicino a me. Cos'è? In quel lato ve laggio. E allora per cosa si chiama telefono portatile? Per quello che lo vuole portare, e se io non lo voglio portare, non è più portatile. È fisso. Beh, già ne stanno tornando tutte le cabine telefoniche, così imparate. Sì, quanto mi dispiace, ma proprio mi dispiace. Caspita, perché c'era ancora qualcuno che usava la cabina telefonica. Solo un guaccio poteva usare la cabina telefonica. Te ne immagini? E anche qua gli hanno tolto da poco. Ma intanto anche se la lasciamo non la usa nessuno. Cosa? Ma per carità. Io mi ricordo tanti anni fa, nella cabina telefonica di via Pascoli, c'era un malloppo di monete pieno. Si vede che quando hanno fatto il controllo lì, o sono andati a ritirare le monete, se l'hanno dimenticato lì. E lì era lì, l'ho lasciato, ma se ne ricorderà quello che viene, se lo riprende. E i gettoni, ti ricordi i gettoni? Sì, con i gettoni, lo sto dicendo, c'era proprio tu immaginati un fazzoletto grande, ma un fazzoletto tipo asciugamano però, ed era pieno di gettoni. Io ho toccato, ho sentito che erano monete, poi se c'erano soldi o erano solo gettoni non lo so. So solo che c'era questa cosa, ma si vede che qui l'operaio è venuto, ha lavorato sulla cabina e ci ha dimenticato il pacchetto qua. Lì era lì, l'ho lasciato, non mi sono preoccupato più di tanto, cosa me la fotti a me? E ne avranno ingrancito subito. Vabbè, può darsi anche, ma non mi interessava a me, no. Se volevo me lo potevo prendere anch'io, no? Ma non voglio proprio pensare a nessuna maniera, no? Non mi interessava, insomma. Ecco. L'ho lasciato lì e ho pensato, ma forse l'operaio che ha lavorato qua verrà e se ne è reso conto e magari torna indietro e lo troverà qua, come da voi si dica. Mica lo so che da lì ti avevi comprato il Saturnecco nuovo, ma mica lo so. Magari ci scivo veramente, non solo Saturnecco, chissà quanto c'era. Penso che erano soldi, non lo so, oppure erano solo gettoni, non lo so. Non lo so, perché anche allora i gettoni, già lo sai, se ti li facevano passare, per quanto li consideravano il valore di un gettone, 50 centesimi, no, quanto era? Io sapevo che con 200 lire si doveva telefonare. Infatti prima con qualche mila così si telefonava, sì certo, ma c'erano le monete, ma poi sono arrivati i gettoni, anche i gettoni quando andavi in qualche negozio, per il resto se non avevano per dire la moneta in mila, ti davano il gettone, te lo ricordi? E poi avevano fatto la tessera, ti ricordi? Anche la tessera, quello non ce l'ho mai avuta io, la tessera del telefono. Sì, poi abbiamo fatto una tessera, la tecnologia poi, paghi su che durata. Paghi su, a me poco mi interessava, per cui no, se avevo il telefono, allora già, guarda il telefono io ce l'ho più di 20 anni, forse anche 25, telefono portatile, io ce l'ho ancora, il primo telefono ce l'ho ancora, funzionante, c'era l'antennino, tirabufuri, io lo chiamo, l'ho sempre chiamato la cabina telefonica col telefono. Sì, c'era lo Sartac, mi pare che quello ci apriva a conchiglia. No, questo qui era proprio un unico colpo, non si apriva, poi ne ho avuto altre che si aprivano, eccetera, ma ne ho ancora tante, mi da guadagnaggio, la vara Giuseppe Urto, forse anche 10 di telefoni tutti quanti dismessi, e sono tutti funzionanti, conservati sono dentro una scatola, e dunque non mi interessano, anche perché sono quei tipi vecchi di telefono, dai, senza internet, senza niente, insomma, ecco. Purtroppo li puoi tenere per ricordo, ma alla fin fine manco quello vale più la pena, montuna. Perché la tecnologia sta correndo talmente tanto che veramente anche le robe di 10 anni fa sono obsolete. Infatti non servono a niente, cosa te lo sto dicendo, proprio il primissimo telefono che me l'avevano dato. Dunque, io avevo preso in matto un ragazzo, e come regalo mi avevano dato questo telefono, il primissimo telefono, ma so che va vedendo, forse 25 anni fa, comunque non meno di 20 anni, più di 20 sì, ma di meno no. E cosa hanno durato le cabine? Una ventina d'anni, no? No, le cabine, il telefono con l'antennino c'era, e ce l'ho sempre, ripeto, ce l'ho sempre, poi le hanno fatte un pochino più piccoli e ce li ho, ce li ho tutti, ne ho anche qui davanti a me, ne ho due, qui davanti a me, su questo tavolino, questo carica batterie, ne ho due, che uno è della buon'anima di mia madre, ogni tanto lo carico, l'altro era l'ultimo telefono prima di avere questo smartphone. Ho capito. Ma stai dicendo, le cabine telefoniche cosa hanno durato? Una ventina d'anni, no? Penso di sì, io mi ricordo negli anni, forse erano gli anni 80, non mi ricordo bene, ce l'avevo in falegneria il telefono di quelli pubblici, no? Quando veniva qualcuno a telefonare dovevo smettere di lavorare io perché lui non sentiva, perché con la bialla o con la macchina accesa figurati se poteva sentire il telefono. Mi sa che era uscito negli anni 90, 91, cellulari, i primi cellulari. Ce l'avevo questo all'ingresso della bottega, ce l'avevo, no? Però poteva solo telefonare. Potevo solo telefonare io e qualcuno che poi, qualche amico che veniva, fammi telefonare, cosa devo telefonare, guarda che questo non è telefono pubblico, mi cos'è, e gli altri telefono pubblico, infatti in effetti era un telefono pubblico, che una greffa di amici della cosa, come si chiama, della Telecom, ancora prima della Telecom, capita, SIP, me l'avevano pensato, me l'avevano. Puoi telefonare, magari ricevere non riceverai mai, tanto il numero tu non lo dai a nessuno, però puoi telefonare quanto vuoi. E visto qualcuno veniva, sapeva che c'era il telefono della strada, no? Fammi telefonare. Mi devo chiudere la bialla, io mi fa telefonare a te, ma non lo so io. Vai a via Pascoli a telefonare, alla cabina telefonica. No, almeno faccio lo gettone, mi telefono giù a Roma. E poi costavano, le tariffe erano alte. Io mettevo il gattone e poi loro telefonavano, o quello sì, ma per dire. E io dovevo, alla fine ho fatto, beh, questa buona cosa, Mario, e cavano subito sul telefono, che non mi serve più. Quando devo telefonare vado all'angolo di via Pascoli, lì, e telefono da lì. Ti accrocco così. Non ti veniva da me a telefonare, la gente della strada non veniva a telefonare da me. Quella scusa, a me me l'avevano messo così in maniera un po'. Già mi capisci, no? Però se volevo solo, potevo solo telefonare io, non è che potevo esagerare, no? Come se loro avessero loro la possibilità di quando fanno le riparazioni di queste cabine, questi armadi che ci sono per strada, no? Ecco, facevano così, faccio qualche volta venivano anche loro, quando ero in zona facevano loro le chiamate per fare il controllo degli armadi, delle cabine, là. Sì, capito. I tempi corrono, Giulio? Sì, i tempi corrono, sì. No, quando mi vanno questa storia a me non mi va. Lascialo stare che magari se ti telefono io già lo sai che sono io, perché intanto nessun altro ti può telefonare. Dice no, cavaniru, dice no, mi voglio lo attendo e ne rifaccio io. Poi c'era qualche deficienza, ti ricordi quegli anni famosi che tutti i altri andavano in cerca di cornetta di telefono per attaccarsi al barattino? Queste erano tutte persone imbecilli, deficienti, che andavano a sabotare e così. Vabbè, ormai quelle persone lì non ci sono più qua, la maggior parte delle persone che facevano quelle cose sono anche scomparse, per cui non è che... Però era la gentaglia, quella per me è la gentaglia. E demolivano le cabine. Ma che dai, una vergogna, ma comunque. Andate, fra poco pure i baracchini demolivano. puliscono. Anche questi sono passati di moda. Ormai sono fuori moda anche questi, anche questi. No, non credo che ritornerà più la moda del baracchino, no? Ci siamo rimasti noi, cinquantenni di frequenza, però no, ragazzi, io non penso che ci sia un ragazzo che abbia voglia di comprarsi un baracchino, assolutamente no. No, perché vedono, con la tecnologia che c'è oggi, lo vedono che è una cosa vecchia, capito, sì, che non gli interessa proprio, sono pochi. Infatti, guardate che ci sarà ancora qualcuno, ma sarà molto, perlomeno questa se quanti anni siamo senza sentire che entra uno nuovo in frequenza? Sono anni, a parte il fatto che qualcuno che magari da di fuori, che è venuto qui a Sassa, è entrato qui a parlare con noi, però era già un vecchio CB anche lui, senza fare nomi chiaramente. Mi ricordo che anni fa, quanto sarà 10 anni fa, più o meno, che si voleva fare una specie di promozione, chiedere il permesso di mettere un tavolino in strada, così tipo che so io, Piazza Castello o addirittura Piazza Italia, con l'antenna, per cercare di pubblicizzare la frequenza, no? In modo che qualcuno si avvicinasse. E invece anche quello non siamo stati capaci di fare, perché qualcuno ha messo il mattone tra le ruote, tra l'altro. Eh sì. E qua sta morendo il baracchino, purtroppo, pazienza, che ci vuoi fare? Nuovi non entrano, vecchi non è, vecchi ce ne sono tutti gli scendi, canali tutti divisi, 4 iatti e 3 canali, bobo. Infatti io sono mesi che non sento più vecchi CB, siamo rimasti noi, siamo rimasti, io, tu, Natale, in questo canale. Qualche volta, vabbè, Gianni già entra ogni tanto, dai. Poi qui è Cresio il Masso. Dunque, adesso non mi viene nemmeno in mente. Invece, nell'altro canale chi c'è? C'è solo Gian Maria, c'è Tore. Qualche volta ci va Franco California, ci va in quel canale. Tutti questi sono i CB del momento. Dico, poi tutti divisi. Bah. Appunto, siamo quattro gatti e tutti divisi, separati, uno un po' un canale e un po' nell'altro. Invece avremmo dovuto essere tutti uniti. Vabbè, c'era qualcuno che su 10 non c'entrava, perché no, c'era prima una persona che lui non voleva sentire, ma era un altro discorso quello. Ma oggi quella persona no, non c'è più. Se no si vede, se abbassano un ventre o t'assenti, boh, cosa vuoi fare? Però giustamente ascolta, noi abbiamo 40 canali e chiamo a tizio per telefoni e hanno deciso di andarsene lì nonostante tanti altri non gli hanno fatto niente. È una scelta, e cosa vuoi fare? Effetti è una scelta, ma comunque dovremmo essere più amici, dai, diciamolo con l'occhiale tondo, dovremmo essere più amici per poter continuare a lavorare su questa frequenza, dovremmo essere più amici, invece ognuno ha contro di grassamuto nei confronti di un altro, voglio essere via. E vedrai che poi quando è 10 non entra più nessuno, si stufferanno anche quelli, perché anche quelli faranno gran parte di ascolto dal 10, quando nel 10 non ci sarà più nessuno, piano piano spariscono anche gli altri, fregati. Ovviamente sì, ormai sono già spariti. Caspita, mi ricordo nelle anni passate a quest'ora, c'erano decine e decine di persone che parlavano, invece adesso, silenzio assoluto. Tutti ascoltano, ma ripeto, qua non ci sarà più niente neanche da ascoltare, allora diranno, forse era meglio che entravo ogni tanto. Ma la teoria tutti ascoltano, che senso ha? Cos'è così buio? Se non c'è nessuno, che cosa? dicendo, poi quando non ci sarà più nessuno ad ascoltare, allora, capito? Diranno, forse era meglio che entravo ogni tanto a parlare, a chiacchierare invece di ascoltare e basta, perché alla fine si sono assentati del tutto. Effettivamente, se la gente parlasse ancora durerebbe l'attività, ma qui io, mentre invece fuori già si sento perlomeno tutto quelli che arrivano di preparazione tutti i giorni, anche quello ho notato. Caspita, noi che siamo più di un anno e mezzo, c'è tutti i giorni preparazione, solo che la preparazione che c'è è tutta straniera, così di tanto in tanto si sente qualcuno in italiano, ma sono tutti stranieri, vedo che parli, è come che non ci sia nessuno, tanto è inutile parlare con loro, non capisce la lingua. Che ci vuoi fare, Giulio? Che ci vuoi fare? Io, guarda, ritardo a risponderti ogni tanto perché sto montando sta roba. Gli ho fatto un supporto e sta a fare qua. Vabbè, dopo ti guarderà le foto. Ok. Dopo le guardiamo le foto. Vediamo cos'è che mi ha mandato. Ma cos'è? Roba di elettronica, se vedo. Sai, costruendo qualcosa, quello in 3D. In 3D sì. Allora, tanti anni fa... non mi ricordo se l'avevo preso alla Lidl o alla Bricoman, vendevano un trapano tassellatore che si chiama CTCID, vabbè, 144, della ROX, marca ROX. Però aveva la batteria di quelle tonde incastonata nel manico all'interno. Questa batteria poi è durata poco, no? E si caricava con quei jack esterni, sai, quelli tondi, classici, però è durata poco come batteria. E allora cosa ho fatto io? Ho stampato, siccome io ho le batterie della Henkel, che sono appunto da 18 volt, della moletta Henkel, e allora mi sono stampato il supporto per far sì che adatto questo martello qua, tramite il supporto attacco la batteria Henkel, così no, siccome ho preso il martello, il tassellatore della Parkside, me lo sono aggiudicato su eBay, è arrivato perfetto, tutto funzionante, no? E che in pratica vanno giù due, solo che a questo qua gli ho fatto l'adattatore per la batteria Henkel, perché ripeto, la sua batteria originale era all'interno del martello, capito, del tassellatore, questo fa trapano tassellatore SDS. Ho capito, insomma l'ha adattato per cercare di metterlo in funzione. E vabbè, anche quello, sai cos'è, sono di grande utilità questi attrezzi così a batteria, però se non li usi frequentemente la batteria se ne scende, poi vuoi caricarla, si ricarica, però la usi pochi minuti e poi di nuovo da capo scarica, perché a un certo momento le batterie si deteriorano, per cui non vanno bene per quello, però sono di una grandissima autorità. Io invece quando lavoravo, ad esempio l'avvitatore, lo usavo praticamente tutti i giorni, un po' lo usavo per trappo, come trappo, un po' lo usavo come avvitatore, dunque le batterie erano sempre al massimo della loro carica, per cui non c'era problema. Se poi invece le lascio, adesso io ce l'ho sempre l'avvitatore a batteria, la ricarico, oggi va bene, domani lo controllo con te se è scesa già di 1 o 2 volt dalla tensione nominale dei 12 volt, no? E dunque non va più bene, perché invece prima rimaneva costante, rimaneva la carica, perché l'ho utilizzato sempre, tutti i giorni, e dunque andava bene per quello. Guarda, io la moletta la uso, c'ho sia la Henkel che la Parkside, la moletta, sono eccezionali, sono di una comunità, Giulio, veramente, anche se sei in terrazzo e sei a casa per dire fare un lavoretto, no, io uso sempre quella batteria, perché devi cagare una corrente, attacca, scomodità, Poi ho comprato anche il disco, quello che taglia il legno per la muletta. È come un disco normale di sega circolare, no? Così è fatto, però è fatto per la muletta. E la sei buruli bedani, come te li taglio? E ce l'ho la circolare? Sì, beh, certo, io lo vedo che li taglia, altro che se li taglia, ma se per quello anch'io ce l'ho la muletta, però è elettrica, non è a batteria. E dunque io addirittura l'ho trasformata, mi sono fatto la squadratrice, io i pannelli ad esempio che so io larghi 70-80 cm, 80 no, 70, ma 60-70 sì, tu li metti e te li taglio a squadra perfettamente, con la moletta, perché avevo comprato un disco, l'ho adattato alla moletta, l'ho adattato, per cui a slitta ho fatto un'apparecchiatura, a slitta ho fatto tranquillamente. Tutte cose che mi sono